Zolt. Fulminati in azienda. Font, sono 3 mesi che ti ho detto di mettere online il nuovo sito della nostra azienda, perché non potevamo permetterci di farlo fare all'esterno. Allora, capisco i tuoi importantissimi impegni, ma il sito che abbiamo è preistoria ormai. Hai ragione, Marco, hai ragione. Lo so da me che è giurassico. Infatti avremo un sito tutto in flash, con effetti scintillanti nella homepage e tutte le pagine ottiche. Cioè una roba come il palco di un concerto a San Siro. Brava, Font, mi piace, ma una domanda, cioè quando è che me lo installi? Quando? È colpa di quelli dell'IT. Ti imbrigliano l'arte con squallidi dettagli tecnici. È strano che quelli dell'IT ti imbrigliano l'arte. Il problema sono loro, sono sempre loro. E allora sai cosa faccio? Li chiamo, li metto in viva voce, così ci parliamo. Pronto? Sì, dottore, mi dica. Mi dica. Allora, sono qui con la nostra responsabile della comunicazione che mi dice che il nuovo sito non è ancora pronto per colpa vostra. No, ma guardi che gli screening dell'implementation fatti sul project dell'Art Director sono impraticabili. La release del Flash Media World Fantasy Maker 7.0 è irrealizzabile. Ecco, per piacere, mi può dire che cosa mi ha detto? Traduco. Il sito proposto è tutto un flash, con l'effetto speciale a onde, e non si può fare, perché l'utente non riuscirebbe a navigarlo nemmeno se prendesse la Xamamina. Fa venire il mal di mare. Ma cosa dice? I nostri clienti è gente smart, tutti velisti, ma sono abituati all'effetto onda. Allora ragazze, sono molto proud di fare coaching con voi. Sono stato incaricato dal direttore Marco Sulpezzo di creare partnership tra il marketing e l'information technology, creare una nuova alleanza, alliance, tra le colleghe donne in azienda per fare il nuovo sito. Se io vinco, tu vinci. No, ma scusi, ma cosa c'entra la questione delle donne? Qua il problema è fare un sito che ci si capisca qualcosa quando ci entri dentro, capite? Se donne in azienda creano veramente partnership, allora grande energy esplode nei progetti. Energizing. È vero, la sento, è l'energia rosa, è lo stesso karma che richiamiamo nel comitato donne leader. Non la senti, cara? Per comprendere come voi potete essere partner per costruire il nuovo site, useremo la tecnica della metafora. Immaginate di essere protagoniste di un film, Thelma e Louise. Sì, ma cosa serve? Quelle alla fine si sono suicidate. Ma è la forza della metafora, ma come sei grigia. Non vedere il lato negativo per costruire insieme the new site. Voi due dovete capire che io vinco, tu vinci, che la soluzione è win-win. Ripetete con me, win-win. Scusa, win-win? Non l'ho mica mai sentito. Cos'è, un software nuovo? Allora, ragazze, dopo il corso con Donald Jump siete riuscite finalmente a trovare un modo per lavorare bene insieme, fare il nuovo sito? Ci ha aperto un mondo nuovo. Abbiamo fatto insieme l'esercizio dell'energia, Zam Salam Zam Zam. Bene, bello. Un esercizio di origine ayurvedica. Abbiamo capito che abbiamo una grande energia in comune, non è vero? No, effettivamente. Bene, sono veramente felice, quindi probabilmente avremo presto il nuovo sito. Ci siamo confrontate con chiarezza e sincerità. Sì, veramente, è stata un'esperienza di introspezione catartica. Beh, sono veramente felice anche di questa catarsi. Ecco, quindi le scadenze, il nuovo sito, siamo a posto. Guarda, abbiamo scoperto un'amicizia che le incomprensioni del lavoro non dovranno intaccare. Ho capito, anche l'amicizia va benissimo. Adesso mi dite o no quando sarà pronto questo sito? E chi lo sa? Devi chiederlo al fornitore esterno a cui l'abbiamo commissionato. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3z2o 1t